Euroreportage. Frontex, in prima linea nella gestione delle frontiere UE, di Sergio Nava. Buongiorno da Varsavia, ci troviamo a Rondò ONZ, strano nome va detto per una piazza, ma una piazza molto importante per quanto ci riguarda, perché qui si trova Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea che coordina la gestione delle frontiere. Il quartiere è quasi totalmente rinnovato, con un nuovo skyline, anche se persistono tanti palazzi dell'era socialista grigi che ci portano a un tuffo nel passato, anche se piano piano stanno scomparendo, sostituiti dalle nuove costruzioni. Noi andiamo allora a scoprirne di più cosa fa Frontex, come gestisce le nostre frontiere e soprattutto come può aiutare l'Italia anche con la nuova missione Triton. Per cominciare saliamo al 22esimo piano della grattacielo che ospita ancora per poche settimane Frontex. L'agenzia è infatti in procinto di trasferirsi a poche centinaia di metri di distanza in un altro grattacielo di nuovissima costruzione, dove potrà venire dislocata in piani accorpati e non come ora separati tra loro. Anche per questo le ultime settimane di permanenza all'attuale indirizzo sono caratterizzate dall'enorme quantità di scatoloni necessari al trasloco, che popolano uffici e corridoi. Ad attenderci c'è Isabella Cooper, portavoce di Frontex. Frontex è un'agenzia dell'Unione Europea che si occupa della gestione della solidarietà tra gli stati membri dell'Unione Europea per quanto riguarda il controllo delle frontiere. Frontex è nata 9 anni fa. Come agenzia abbiamo iniziato con 17 persone, ora siamo in 300. Anche il nostro budget in 9 anni è aumentato da 17 fino ora a 87 milioni di euro. Voi non siete una guardia di frontiera, siete un'agenzia di coordinamento delle guardie di frontiera nazionali. Cosa è successo con Schengen? Sono stati rimossi i controlli delle frontiere tra gli stati membri. Quindi la Germania non ha più il confine con la Francia. Questo confine si è spostato a Lampedusa. Il ruolo di Frontex è quello di assistere quegli stati membri dell'Unione Europea che hanno il confine esterno, e lo facciamo in una varietà di modi. Quello più visibile indubbiamente sono le operazioni congiunte che coordiniamo. Come lo facciamo? Se uno stato membro si trova, un paese europeo si trova sotto una pressione migratoria importante come l'Italia quest'anno, Frontex assiste l'Italia coordinando il dispiegamento dei mezzi tecnici, quindi navi, barche di pattuglia, aerei, gli elicotteri, come pure polizia di frontiera, per assistere le autorità italiane. Quindi noi non sostituiamo l'obbligo che hanno le autorità italiane a controllare le proprie frontiere, ma gli offriamo l'assistenza tecnica. Isabella Cooper citava la Sicilia, dove dal 1 novembre si trova dispiegata la missione comunitaria Triton, missione fortemente voluta dal governo italiano, anche se, come vedremo, la sua dimensione è tale da non poter mai sostituire Mare Nostrum per davvero. Un primo bilancio a poco più di un mese dal lancio di Triton dalla direttora di interim di Frontex, Hila Rias. Sentiamolo nell'intervista rilasciata a Radio 24. Approximatamente 10.000 persone sono le che hanno sido rescatate o intercettate. Approssimativamente 10.000 persone sono state salvate o intercettate a novembre nell'area coperta da Triton nel sud dell'Italia. A livello di operazioni abbiamo registrato 70 interventi da parte nostra, sempre a novembre. 2/3 di questi interventi sono stati salvataggi in mare veri e propri di imbarcazioni in difficoltà, afferma Rias. Estas son las cifras correspondientes al mes de noviembre. E la pratica di Triton ha già portato a infrangere una delle regole stabilite col nascere dell'operazione, il raggio d'azione contenuto entro le 30 miglia nautiche italiane. Impossibile limitarsi, come rivela Arias. Bien, lo cierto es que los incidentes, ci siamo spinti oltre le 30 miglia con i nostri mezzi. Gli incidenti e le chiamate di soccorso si verificano anche al di là di questo limite, e poiché hanno priorità assoluta, le imbarcazioni di Triton hanno dovuto abbandonare le zone di pattugliamento per andare a soccorrere gli immigrati. Questo non rappresenta necessariamente un problema, ma chiaramente porta i nostri mezzi ad abbandonare la zona operativa stabilita. Perché il salvar vidas può essere una priorità assoluta. Al momento Triton può contare su 4 aerei di sorvolo, un elicottero, 4 navi d'altura, un pattugliatore e 2 altre imbarcazioni di pattugliamento, oltre ad esperti internazionali in assistenza delle autorità italiane. sono sufficienti? Chiediamo ad Arias. Por supuesto, si hubiésemos dispuesto de más. Se avessimo avuto un budget superiore ai 2,9 milioni di euro al mese, le dico solamente che questa cifra comprende anche tutte le procedure di avvio dell'operazione, il che ci ha obbligati a chiedere alla Commissione europea il trasferimento di fondi addizionali pari a quasi 4 milioni. Altrimenti non ce l'avremmo fatta. Con questi fondi arriveremo a gennaio, dopodiché dovremmo beneficiare dei fondi del bilancio comunitario 2015. Al momento non abbiamo una data di fine dell'operazione. Le nostre previsioni sono comunque di mantenere Triton fino alla fine del prossimo anno. Incluso incrementare medios l'operazione. Più in generale, tenendo in conto le attuali ondate migratorie, Frontex ha abbastanza risorse? La situazione nel Mediterraneo centrale, di alguna maniera. La situazione nel Mediterraneo centrale ha prodotto cambi drastici anche nella necessità di finanziamento di Frontex. Se i flussi migratori non fossero cresciuti, i 90 milioni di bilancio annuale non avrebbero necessitato di grosse modifiche. L'incremento dei flussi migratori ha però prodotto un cambio drastico. Attualmente si sta contemplando la possibilità di 20 milioni addizionali di riserva per Frontex nel 2015. Nel caso la situazione resti critica alle nostre frontiere o si aprano nuovi focolai di crisi, conclude Hilarias. 20 milioni dovremmo essere capaci di far fronte l'anno che viene. Frontex si occupa anche di formare il personale di frontiera comunitario, aiutare nella condivisione di risorse e favorire la transizione verso strumenti di controllo tecnologicamente più sofisticati delle frontiere come i satelliti. A Frontex lavora anche uno dei maggiori esperti in flussi migratori europei. È un italiano, si chiama Antonio Saccone, è responsabile del settore analisi operativa e vi assicuriamo una mezz'ora con lui è sufficiente per rendersi conto della complessità dei flussi che convergono verso l'Europa, da ovest, da sud, da est. Come premessa vi anticipiamo solo che il 2014 è stato un anno record per numero di immigrati salvati o intercettati, oltre 250.000 lungo tutto l'arco dei confini esterni comunitari. Entriamo allora nel suo ufficio. Siamo con Antonio Saccone di fronte a un'enorme mappa che copre quasi metà parete del suo ufficio, che fotografa, possiamo dire, tutto il Mediterraneo. Allora, con Antonio Saccone andiamo un po' a vedere quali sono stati i flussi che nel 2014 hanno coinvolto innanzitutto il Mediterraneo, ma poi andremo anche sul resto d'Europa. Mediterraneo che ha avuto, vediamo dai vostri dati, un più 284% di flusso da Libia, Tunisia, verso proprio la Sicilia, verso l'Italia. In termini assoluti, a quanto è ammontato questo flusso, ma soprattutto cos'è successo quest'anno per far esplodere questa rotta? La rotta del Mediterraneo non è una rotta nuova, quella che collega la Libia soprattutto con la Sicilia e Lampedusa. È una rotta che è sempre stata storicamente, soprattutto negli ultimi 10 anni, intrapresa con fasi alterne, con un incremento notevole nel 2011 durante l'anno della primavera araba. Quest'anno abbiamo un numero che è al di fuori di ogni serie storica. Il numero quest'anno è superiore di gran lunga a quei 60.000 che abbiamo registrato nel 2012, stiamo parlando di più di 160.000. Attualmente stiamo parlando di 163.000 persone a fine novembre di questo anno. Chi sono di fatto approdate in Sicilia o a Malta? Beh, in realtà queste sono barche che lasciano la Libia, però ci sono anche dei flussi dall'Egitto e dalla Turchia che sono notevoli, e la maggior parte di questi incidenti vengono intercettati in alto mare. Punto di partenza principale è la Libia? Punto principale di partenza è la Libia, che ha registrato più o meno l'80% di questi 160.000, ma un numero considerevole è arrivato anche dall'Egitto. E parliamo di circa 20.000 persone, e adesso negli ultimi mesi stiamo vedendo una intensificazione dei flussi dalla Turchia, soprattutto nell'inverno. Tra poco ci arriviamo. Diciamo, il fronte spagnolo è un po' più, tra virgolette, tranquillo, 6.000 arrivi quest'anno, più 18%, bisogna dire, mentre guardando alle Canarie 200, un incremento del 12%, però perché la Spagna, questo fronte, è comunque meno battuto? La Spagna è riuscita, innanzitutto ha un interlocutore, il Marocco, che è un interlocutore con il quale ha raggiunto degli ottimi accordi di cooperazione. Da dove provengono le persone che, diciamo, puntano verso Spagna e Italia? Abbiamo gruppi di nazionalità differenti. Diciamo che, per esempio, l'Italia, il maggior numero di persone che sono entrate sono di origine siriana. Sono siriani oppure palestinesi che vivono in Siria. E abbiamo avuto anche, stiamo avendo sempre più adesso afghani che vengono dalla Turchia, iracheni che vengono dalle zone dove c'è lo Stato Islamico che sta facendo Kobane, quelle zone lì, mentre Un altro tipo di nazionalità sono quelle che vengono dal Corno d'Africa, somali ed eritrei, che sono stati anche molto presenti in Italia. Continuiamo il nostro giro, come dire, dei confini europei. Non lo vediamo su questa mappa, però c'è tutto il confine orientale che parte dalla Finlandia, arriva praticamente qui alla Polonia e anche un po' più sotto, dove in realtà ci sono stati neppure 1000 arrivi in un anno ed è anche in calo il 20%. È un confine estremamente esteso, ma poco battuto, c'è una ragione. Diciamo una zona molto in cui gli accordi di cooperazione sono molto ben, c'è cooperazione con gli altri stati, non c'è incentivo da parte dei migranti di usare queste rotte, preferiscono usare la Turchia. Esatto, e questo è l'ultimo fronte su cui mi vorrei concentrare con Antonio Saccone, ed è un fronte che ha fatto registrare in un anno un incremento del 103%. Non siamo ancora ai numeri del Mediterraneo centrale, perché siamo a 47.000, però quest'area tra Turchia e Bulgaria sta facendo registrare grossi incrementi, soprattutto la parte proprio dell'Anatolia verso l'Europa. Qui cosa sta succedendo? Qui stiamo assistendo a un aumento notevole dei flussi via mare. Quest'anno abbiamo registrato fino adesso più di 43.000 arrivi dalla Grecia, di cui quasi 40.000 nelle isole greche. Un passaggio sui nuovi mercantili che, ultimo trend del tragico business dei migranti, stanno salpando dalla Turchia verso l'Italia, toccando altri porti del Mediterraneo, può costare 6.000 euro. Moltiplicati per 500 passeggeri fanno 3 milioni di ricavi per i trafficanti di esseri umani. E un passaggio sulle carrette del mare, che dalla Libia partono invece verso l'Italia, costa 2.000 euro sul ponte e 1.000 euro nella stiva, dove si rischia seriamente la morte per asfissia. Quest'anno le vittime ufficiali dell'immigrazione irregolare nel Mediterraneo sono state 145, ma le stime ufficiose ondeggiano fra le 3.000 e le 4.000. Cifre da guerra, una guerra in cui potenti organizzazioni criminali lucrano milioni di euro, mentre i poveri e i disperati del sud del mondo rischiano la vita per un futuro assolutamente incerto. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.